luogo non fisico come è stato questa rivista, dove il confronto intellettuale si possa sviluppare anche nelle sue punte più alte e con un'attenzione al territorio che è stata, devo dire, in questa rivista esemplare. Io voglio solo testimoniare i grandi nomi che sono stati e che oggi insomma, sono tutti sulle spalle del professor Nolet, che ha portato avanti questo lavoro con grande entusiasmo, passione. Penso a Pierluigi Siena, penso soprattutto al presidente storico che è stato Giuseppe Negri, e che mi dispiace di non venire qui, ma saluto la sua signora. So che ha qualche problema di salute ancora, e a lui soprattutto va un ringraziamento, credo, di tutte le persone che si sono appassionati del fare cultura in questa terra. Penso a Carlo Lazzarini, penso adesso a Simona Kettmeier che ci sta dietro, e voglio ringraziare soprattutto Giorgio Delle Donne per questo lavoro e per tutto il lavoro che lui ha fatto di cristallizzazione della memoria documentale e non solo documentale, della presenza culturale soprattutto di lingua italiana in questa provincia. E intorno a questo cenacolo di intellettuali si è mosso veramente tanto dibattito. Penso a quello politico curato dal professor Nolet, ma in tutti gli altri campi, letterario, artistico, e credo che per chi si affaccia oggi a conoscere questo territorio sia forse uno degli specchi più esemplari. Quindi credo sia veramente importante avere un lavoro come questo, che ne dà un'idea, c'è una scelta proprio fior da fiore di questi 50 anni, e penso che sarà anche interessante il futuro progetto di rendere quanto più possibile accessibile anche il passato, ma anche un lavoro per il futuro. Io mi auguro che questa rivista continui negli anni, trovando anche nuove collaborazioni, perché credo che sia importantissimo. Ricordo negli anni 80, insomma, per chi si affacciava alla discussione intellettuale, scrivere per il Cristallo era un motivo di grande orgoglio, insomma. E successivamente era ancora una delle pochissime riviste che dava gli estratti, quindi per chi scriveva era veramente qualcosa di importante che rimaneva, insomma, nella storia. Adesso esiste un volume che questa storia l'ha fotografato, e volevo proprio ringraziare. Credo che adesso possa dirne molto di più il professor Nolet. Grazie. Grazie. Ringrazio naturalmente sia il dottor Pate Lampis, sia la dottoressa Trevisan. Ringrazio per il sostegno avuto, per la presentazione, oltre che per la pubblicazione di questa antologia. Devo dire che mi dispiace moltissimo, ma l'ha detto già Lampis, che non sia presente qui Giuseppe Negri, di cui io sono il continuatore, ma un continuatore che, facendo questa antologia, ha pensato a lui e a ricordarlo. E devo dire che mi dispiace anche che non ci sia presente il nostro De Marchi, che ha curato la scelta dei testi di letteratura. De Marchi non sta bene, mi ha scritto una lettera giustificandosi, diciamo così, per la sua non presenza, ma dichiarandosi sempre tremendamente solidale con questa iniziativa. Devo dire, sì, perché abbiamo avuto questa idea, insomma, di fare un'antologia di 50 anni della rivista? Ma perché abbiamo pensato che questa fosse questa rivista, nei 50 anni, fosse stata espressione di una parte almeno della cultura del gruppo linguistico italiano nella nostra provincia. Cioè, guardando i singoli volumi, seguendo le annate di questa rivista, si può ricostruire così un po' la storia di una parte, dico, di una parte della cultura del gruppo linguistico italiano. E penso che sia giusto che venga ricordata la storia di questo gruppo linguistico italiano in questi anni. Stiamo ben attenti che il gruppo linguistico italiano, così artificialmente composto, ma così proveniente dalle più diverse parti d'Italia, doveva affrontare nel 1945 i problemi di una convivenza democratica con il gruppo di lingua tedesca e con il gruppo ladino. Il problema era soprattutto col gruppo di lingua tedesca. Bisogna pensare che si doveva scegliere un'apertura fortemente e decisamente democratica. Ora, a me sembra che in questa rivista ci sono alcuni testi straordinariamente importanti che dimostrano come il gruppo linguistico italiano, ben prima della conclusione delle trattative per il secondo statuto di autonomia, ben prima delle scelte che furono fatte della commissione dei 19, ben prima aveva assunto una posizione di straordinaria apertura, direi una posizione molto civile. E questa testimonianza potrebbe anche concorrere a valutare in una maniera più equilibrata la presenza italiana in questa provincia, no? Considerando gli aspetti anche positivi del contributo dato dagli italiani alla vita della provincia in questa seconda metà, nella seconda metà del Novecento e in questi primi anni del 2000. Forse questo può essere importante. Io ho la fiducia sempre avuta che si dovesse qui sperimentare qualche cosa di straordinario, cioè l'incontro di gruppi linguistici diversi, la possibilità di stabilire dei rapporti piuttosto intensi. Sappiamo benissimo che questo non avviene ancora, possiamo dire che questo progetto è ancora lontano dal suo compimento, c'è il rischio che non venga mai compiuto, però penso anche che quelli che vivono qui, quelli che sono più giovani di me, molto più giovani di me, le nuove generazioni, possano, come italiani, affrontare questa realtà a testa alta, continuando a dare un contributo positivo di grande civiltà e di cultura aperta. Ultima cosa che voglio dire è questa: in questa rivista ci sono delle aperture alla cultura cosmopolita, perché noi viviamo in un'era di cultura cosmopolita, sempre tenendo presente però che siamo unilaterali, diciamo, in realtà la cultura europea è la cultura statunitense, no? Adesso dovremmo aprirci a ben altre culture, adesso siamo a ben altri problemi, però noi nella seconda metà del Novecento avevamo il problema di aprirci a tutte le cose più innovative della cultura europea e americana. E questa rivista dà dei contributi estremamente interessanti in questo senso. In un certo senso, almeno fino agli anni 70, gli italiani sono stati più aperti dei sudtirolesi, per ovvi motivi, perché i sudtirolesi dovevano recuperare la loro identità, riaffermarsi, e dovevano rifarsi le tradizioni, non guardare a Brecht o altro. Ecco, questo è il punto. Quindi gli italiani sono arrivati a Brecht prima dei sudtirolesi e forse sono arrivati anche a Bernard prima dei sudtirolesi, ma questo non è un merito degli italiani, però non è un demerito, cioè forse hanno dato anche loro un certo contributo. Vi ringrazio di avermi ascoltato e vi ringrazio soprattutto di essere venuti, ma è qui adesso i due collaboratori che spiegheranno bene il senso di questo, di come è organizzato questo volume, e daranno le informazioni che sono i più importanti. Sì, anch'io saluto e ringrazio il pubblico e gli organizzatori. Allora, dobbiamo spiegare, quindi, cioè, mentre il professor Nolet ha portato la testimonianza diretta di una persona che, fin dalla fondazione del Centro di Cultura dell'Alto Adige, non dimentichiamo nel 1956, fin dal primo numero della rivista nel 1958, ha collaborato a questa lunga iniziativa culturale ed editoriale, dovrei spiegare per quali motivi lo scorso anno abbiamo deciso di fare questa antologia e quali sono stati i criteri di scelta, no? Ecco, io e Max Bertoldi abbiamo un motivo precisissimo, siamo entrambi coscritti della rivista, siete nati nel 58, io e Massimo Bertoldi abbiamo proprio la stessa età anagrafica, esatto, della rivista, e arrivati a 50 anni si fanno sempre di bilancio della vita e anche nelle attività editoriali, culturali, politiche e sociali. Quindi lo scorso anno abbiamo deciso insieme di fare questa antologia, che è una scelta di circa 40 articoli e 10 recensioni. Ma le recensioni erano proprio delle recensioni serie, non erano semplici segnalazioni di libri, e poi parlerò dello specifico di una recensione molto importante di Nolet, 40 articoli e 10 recensioni su circa 4.500 articoli e recensioni, quindi abbiamo scelto praticamente un pezzo ogni 100 pezzi pubblicati, 4.500 articoli e recensioni, e una quantità veramente notevolissima di materiale. E per quanto riguarda la mia storia personale col cristallo, devo dire che quando ho iniziato a occuparmi di questione altoatesina in fase di compilazione di tesi di laurea, ho cercato subito delle fonti, no? Locali, siccome io volevo spingermi proprio fino agli anni 70, no? Perché a mio parere era assurdo limitarsi al 45, no? o come facevano alcuni all'epoca addirittura al momento dell'annessione, insomma, perché 30 anni fa, 40 anni fa c'era qualcuno che diceva che non era possibile studiare gli ultimi anni, no? Ecco, mentre adesso tutti noi diamo per scontato, anche sui manuali scolastici, l'ultimo capitolo, l'ultimo paragrafo è sempre relativo agli avvenimenti di 2-3 anni fa, no? È cambiata completamente la mentalità rispetto a 30 anni fa, e una delle poche fonti disponibili era la rivista Il Cristallo, insomma, no? Per cui sono andato a leggermi le annate, all'epoca erano 20 annate arretrate di questa rivista, e poi ho cominciato a contattare personalmente le persone che di questa rivista erano stati i principali animatori, collaboratori, appunto il professor Nolet, pensiamo al professor Farias, Lidia Menapace, Giuseppe Negri, Carlo Lazzarini. Persone che provenivano quasi tutte dal mondo della scuola, questa è una cosa importante, no? Cioè all'epoca il mondo della scuola aveva un carattere statale, no? E c'era un gran turnover, no? Di insegnanti e presidi che venivano, andavano, ecco così, e molto spesso portavano anche l'infa vitale, chiaramente portavano esperienze e sensibilità diverse anche a seconda della loro origine, no? Per cui chiaramente il triestino come Nolet o il trentino avevano una sensibilità rispetto all'autonomia diversa da quella che poteva avere da persona che poteva provenire da altre regioni. Però ad esempio il professor Faria, calabrese se non sbaglio, o pugliese se non sbaglio, non dimentichiamolo mai, insieme a Lidia Menapace è stato l'organizzatore del famoso convegno nel Mulino, un'altra rivista prestigiosa, quel convegno svolto il 4 e il 5 novembre del 61, i cui atti sono stati pubblicati, rimane un punto di riferimento di come l'opinione pubblica italiana democratica aveva proposto di risolvere, fra virgolette, la questione altoatesina nel 61, cioè l'anno delle bombe, no? Tornando al discorso che faceva Nolet prima, non eravamo proprio tutti uguali, c'erano sensibilità effettivamente molto diverse. Molto spesso la cultura anticipava poi anche quelle che erano le soluzioni politiche, no? Cioè leggendo oggi gli atti del convegno del Mulino abbiamo veramente delle indicazioni molto interessanti anche riguardo all'università, ad esempio, no? Che è un argomento trattato anche in questa rivista, in questa antologia, che è un problema che è stato poi dopo affrontato concretamente solamente 40 anni dopo, no? Ecco, oppure Lidia Menapace, appunto, che con Farias aveva organizzato questo convegno, e persone che erano anche molto impegnate direttamente in politica, chi da una parte e chi dall'altra. Farias era stato assessore comunale, Lidia Menapace assessore provinciale, e Claudio Nolet è stato in seguito assessore comunale alla cultura, no? Quindi persone anche impegnate non solo nell'ambito scolastico, direttamente dal punto di vista professionale, nell'ambito culturale, ma anche impegnate direttamente in politica. E quindi questi colloqui che ho fatto con queste persone sono stati veramente molto molto importanti per me, perché ognuno mi ha dato dei contributi interessanti e sono stati veramente degli stimoli molto molto importanti. E subito dopo la tesi di laurea ho pubblicato su questa rivista un articolo, citava appunto l'Ampis prima, il fatto che all'epoca la rivista dava gli estratti, no? Ecco, custodisco gelosamente questo primo articolo pubblicato subito dopo la tesi di laurea, riguardante la diversa conoscenza della storia locale nei diversi gruppi linguistici in Alto Adige e quelle che erano le conseguenze sul piano sociale, no? Di questa diversa conoscenza, rapporto fra storia e identità collettiva di carattere nazionale in Alto Adige, con tutti i problemi di strumentalizzazione, anche ovviamente che poteva esserci da una parte, o di non conoscenza dall'altra. Ecco. Per questo motivo poi dopo, tanti anni dopo, ho realizzato gli indici della rivista Cristallo, pubblicati in questa collana, è arrivata ad avere 7-8 volumi, in questa collana ho cercato di raccogliere quella che è stata la produzione culturale in lingua italiana nel XX secolo per quanto riguarda la questione altoatesina. E negli anni, ecco, quindi praticamente abbiamo deciso lo scorso anno di organizzare questa rivista, ci siamo divisi un po' il lavoro, il professor Nolet, che si è occupato prevalentemente di politica e filosofia, Massimo Bertoldi con la sua specifica competenza sul teatro, De Marchi per quanto riguarda la letteratura, e io fra storia e politica. Fra storia e politica non ho raccolto e le pubblicazioni di Nolet, perché come è stato già ricordato prima, questa rubrica fissa che è pubblicata nel 61 è stata già pubblicata in tre volumi. Il primo volume sarà pubblicato nell'81, raccoglie le prime 20 annate, dal 61 all'80, il secondo volume copre il decennio degli anni 80, il terzo volume il decennio degli anni 90, quindi il terzo volume arriva fino al 2000, sicuramente si tratterà di pubblicare più presto anche il quarto volume, che dovrà comprendere le prime 10 annate di questo secolo e di questo millennio. Va bene? Quindi non ho proposto questi contributi di Nolet, che sono fondamentali, proprio perché sono già raccolti in questi tre volumi. Però appunto ho proposto altri articoli, articoli molto interessanti di persone che sono state importanti, anche se alcuni sono poi scomparsi dalla memoria pubblica, no? Dalla memoria collettiva. Questo è anche un altro problema di questa comunità, no? Una comunità che non ha memoria fondamentalmente, no? Che non ha memoria collettiva, no? Che ha buttato via il bambino insieme all'acqua sporca, no? Ecco, perché qua un conto è parlare di italianità dell'Alto Adige, un conto è parlare degli italiani dell'Alto Adige, no? Sono due cose completamente diverse. Non solo vuol fare l'apologia dell'italianità dell'Alto Adige, ma raccogliere le testimonianze, ricostruire la storia di questa comunità, penso che sia una cosa fondamentale, insomma, se vogliamo continuare a vivere e anche a convivere qua. Quindi persone di cui si è persa la memoria, come Tino Tomasi, ad esempio, no? Scomparso precocemente, il suo articolo intitolato Minima Sottirolensi rimane secondo me una cosa fondamentale. Questo articolo, pubblicato in forma anonima, però frutto della discussione del comitato di redazione della rivista, intitolato L'Università Bolzano, pubblicato nel 61, anche un punto di riferimento, no? Sicuramente non tutti quelli che parlavano di università ne parlavano in termini positivi, no? C'era anche qualcuno nel mondo di lingua italiana che usava l'argomento dell'università come una minaccia, nel confronto dei sottirolesi diceva: state attenti che se fate i cattivi vi apriamo noi un'università a Bolzano, e questa in 448 faremo fuori la vostra minoranza nazionale, no? Cioè, c'era anche questa ipotesi all'epoca, no? C'era anche chi usava l'argomento università come minaccia di confronto dei sottirolesi, però non era sicuramente questa la posizione né del gruppo del Mulino né del gruppo del Cristallo, no? Cioè lì si vedeva l'università come volano culturale per i gruppi linguistici che vivevano in questa terra. E ho segnalato ad esempio il libro, l'articolo di Stelio Danesi, Danese, su Tirolo, razzismo e civiltà. Anche il Danese è un personaggio molto, molto particolare, no? Ecco, uno che aveva anche girato il mondo e ha avuto esperienze di insegnamento anche all'estero, no? Ecco, quando John Biles è venuto a Bolzano qualche anno fa, ha salutato pubblicamente Stelio Danese, ricordando che il suo contributo e la sua esperienza è stata fondamentale per le sue scelte poi politiche, pacifiste, di cui non è proprio il caso di parlare in questa situazione, no? Ecco, o articoli di Alfredo Casera, ad esempio, un sociologo che nel 71 pubblica un articolo intitolato Il problema etnico e la situazione sociale, no? Quindi segnalo solamente questi 4-5 articoli che sono veramente fondamentali. L'articolo di Guido Calogero, no? Intitolato Individui, lingue e nazioni, dove fa un po' di chiarezza, no? Di alfabetizzazione di base, no? La differenza fra cittadinanza e nazionalità, l'importanza delle diverse culture, no? Che hanno lingue diverse ma possono avere ovviamente momenti di confronto. Prima parlavo anche della segnalazione di libri, no? Che era una cosa fondamentale, e segnalo un articolo di Nolet, l'unico che ho antologicizzato per i motivi di cui parlavo prima, e che è la segnalazione di un libro di Paola Latri, no? Un libro che è stato una svolta dal punto di vista storiografico per quanto riguarda la questione altoatesina. È stata la prima volta che uno storico di lingua italiana ha ricostruito la questione altoatesina nel XX secolo, diciamo così, dalla guerra, dai primi anni del Novecento, prima della guerra, dall'annessione in poi, fino alla fine degli anni 50, va bene? Paola Latri, uno storico scomparso 20 anni fa, fra l'altro ha scritto la prefazione al mio primo volume pubblicato, quello su Cesare Battisti e la questione altoatesina. Paola Latri ha scritto un libro bellissimo che però ha avuto una storia particolare, no? Perché essendo stato pubblicato insieme al libro di Edi Vallini, che risultava essere stato un plagio del libro di Gianni Bianco, è stato poi sequestrato, ritirato dal mercato, e quindi praticamente, ecco, si trova in pochissime copie nelle biblioteche, e poi però è stato sequestrato e mandato al macero, va bene? E, però Gianni Bianco che aveva praticamente scritto il libro La guerra dei tralicci, risulta anche nella recensione, di Lida Mela Pace, perché Lida Mela Pace segnala un libro di Gianni Bianco intitolato La casa sull'Arge, la casa sul fiume, e Lida Mela Pace dice giustamente nei primi anni 60 è il primo romanzo scritto da un italiano dell'Alto Adige. Allora non per mettere la bandierina tricolore, però lei dice quando un gruppo linguistico comincia a produrre letteratura, comincia a produrre cultura, vuol dire che si è radicato in un territorio, va bene? Questa è una cosa fondamentale, no? Nei primi anni 60 fare un articolo di questo tipo. Il libro di Alatri, dicevo, è fondamentale perché è il primo libro di uno storico sinceramente democratico che ricostruisce le vicende avvenute negli anni del fascismo, negli anni del nazismo e anche nel primo dopoguerra, no? Non dimentichiamo che questa rivista esce nel 58, quindi dopo il 57, dopo lo Sfontrient, va bene? I primi numeri sono proprio del periodo del terrorismo, no? Il 61 è l'anno dei fuochi, il 64 è l'anno della commissione dei 19, quindi insomma i primi 10 anni della rivista, ecco, sono stati 10 anni del terrorismo, sia quello autoctono sia quello internazionale, va bene, con tutti i risvolti che noi possiamo, immaginare, no? L'altro giorno sul Corriere, voi tutti avrete letto, no? I diari di Indro Montanelli, dove riporta ad esempio le dichiarazioni di Saragat, no? Per quanto riguarda le azioni dei terroristi che venivano dall'Austria e colpivano in provincia di Bolzano. Però per dire, questo libro di Paolo Alatri è ampiamente utilizzato anche dai legali dei terroristi sudtirolesi. Se voi andate a vedere il libro intitolato Il processo di Milano, i processi di Milano, scusate, sono due, i processi di Milano nel ring della difesa, vedete che gli avvocati difensori dei terroristi sudtirolesi accusati di attentato di integrità territoriale dello Stato, cioè un reato che prevedeva l'ergastolo, capito? Questi difensori, che motivazioni potevano tirare fuori per spiegare le motivazioni dei terroristi sudtirolesi? La storia. E allora ci sono ampi stracci di questo libro utilizzati da questi legali. Però fondamentalmente è vero che anche la politica dava molta importanza alla storia all'epoca, no? Ecco, diversamente da quanto accade al giorno d'oggi, dove tutti i politici fanno corsi di comunicazione di massa, va bene? Però nessuno fa corsi di storia, perché ormai quella è una cosa che sembra un'opzione, sembra qualcosa di più. Va bene? Io vi posso dire, a voi vi stupirà, però vi posso anticipare che da qua a 10 anni non si studierà più la storia, d'accordo? Voi che siete fuori dalla scuola da un po', non potete immaginare che la geografia, ad esempio, non si studia più. Se qualcuno ve l'avesse detto 10 anni fa, avreste detto no, è impossibile, no? Però la geografia non si studia più, ecco, e vediamo anche quali sono le conseguenze. Ecco, vedo anche il professor Lazzarini, buongiorno, buongiorno, è nascosto sotto, scusa. E vi assicuro che da qua a 10 anni la storia non si studierà più. Una volta tutti i partiti facevano formazione, come le aziende fanno formazione del personale, anche i partiti facevano formazione del personale militante, e la formazione si basava sempre sulla storia, no? Perché tutti i partiti davano una grande importanza, no? Il passato, no? Cioè noi siamo qui perché siamo i figli di quelli là e vogliamo fare quella cosa lì, cioè c'era una linea coerente, no? Fra il passato, il presente e il futuro. Adesso queste cose qua non si fanno più, appunto perché i partiti puntano più alla comunicazione di massa, ma poi un po' meno al contenuto. Però per finire questo mio intervento segnalo altri due recensioni non raccolte in questa antologia di Nolet relative a pubblicazioni di sociologia. Ad esempio il libro di Flavia Pristinger, no? Intitolato La minoranza dominante in Sudtirolo, uscito nel 79, un libro fondamentale che spiegava in 448 i problemi derivati dalla divisione etnica del lavoro e dalla divisione etnica del territorio che ha sempre caratterizzato l'Alto Adige, adesso in misura minore, ma all'epoca in misura ancora sostanziale, no? Cioè, se negli anni 70 si parlava di industria, si parlava di grande industria capitale e lavoro italiano, d'accordo? Se si parlava di agricoltura, si parlava di agricoltura tedesca. Adesso sono passati 30 anni, è cambiato molto, no? Da questo punto di vista. Però il concetto di divisione etnica del lavoro e anche del territorio è un concetto che all'epoca era molto importante e serviva a spiegare molte cose. E sempre inoltre segnala il libro di Acquaviva, vi ricordate? Alto Adige, spartizione subito, no? Insieme a Eisenman, questa è l'analisi di questi due sociologi, uno italiano e uno germanico, che vengono a Bolzano per studiare la realtà della minoranza nazionale e scoprono che se c'è una minoranza che sta veramente rischiando la pelle non è quella di lingua tedesca, ma è la minoranza di lingua italiana. Tutto il problema, chi è minoranza in questa terra, è un problema così. Basterebbe fare un po' di analisi storica, sociologica e terminologica, sarebbe molto, molto semplice, e non affrontare queste cose solamente in termini di polemica politica. Il libro di Eisenman, vi ricordate, dopo questa analisi dava questa proposta, no, di spartire l'Alto Adige su Tirolo in due cantoni, no, facendo, ripristinando il confine napoleonico a Chiusa e spostando a nord tutti gli abitanti di lingua tedesca che abitavano al sud e spostando a sud tutti gli abitanti di lingua italiana che abitavano al nord. La proposta era ovviamente una pazzia, va bene, però non a caso i politici dell'allora furbescamente si sono poi dopo focalizzati sulla terapia proposta e non sull'analisi, però l'analisi rimane sempre una questione ancora molto importante. Per finire il mio breve e confuso intervento, e riprendendo anche il discorso fatto prima con l'Ampis, con la Valeria, così, chiudere un periodo e aprirne un altro. Fondamentalmente è importante passare alla storia, no? È importante ad esempio digitalizzare questa rivista, no? La biblioteca ha già un progetto avviato in corso da anni di digitalizzazione di riviste in lingua italiana, no? Il Piccolo Posto, altre riviste in lingua italiana uscite nel Novecento, quindi un progetto di digitalizzazione delle riviste sarebbe una cosa molto molto importante. Chiaramente sarebbe anche importante aggiornare questi indici, no? Inserirci le ultime 15 annate e poi realizzare un sito con un ipertesto, dare quindi la possibilità alle persone di studiare, ricercare, stamparsi e salvarsi i file. Tutte queste cose che la tecnica ci rende possibili, i finanziamenti per queste cose, i finanziamenti sono sempre meno consistenti, no? Cioè, rispetto a 20 anni fa, queste cose sono meno costose dell'epoca e sarebbe forse il caso di pensarci per archiviare i primi 50 anni in questa forma e con questi strumenti e poi ripensare a come lavorare per i prossimi 50. Prego. Adesso tocca a Massimo Bertolli, che ha sempre seguito le vicende del teatro. Il Cristallo, anche il Centro di Cultura dell'Alto Adige, si sono sempre impegnati fortemente nel sostegno della vita teatrale, in particolare del Teatro Stabile di Bolzano, e quindi ci sono qui dei contributi molto interessanti di cui parlerà Bertolli. Era perché il gruppo linguistico italiano forse ha trovato proprio nel teatro, adesso c'è una ricchezza di proposte per fortuna, pensare che i tempi di adesso sono tempi meravigliosi, abbiamo avuto tempi durissimi, però il gruppo linguistico italiano forse ha trovato coesione proprio nella vita teatrale. Anche adesso il gruppo linguistico italiano e l'Ampis lo dice sempre, il gruppo linguistico italiano è vero, sta mostrando una straordinaria vitalità, ma grazie però anche al teatro. Allora qui Bertolli. Sì, devo dire che quando Claudio Nolet mi ha proposto questa di curare e selezionare questa parte antologica dedicata al teatro, l'ho detto va bene, lo faccio volentieri, pensando di cavarmela con poco tempo, dicevo, vabbè, tanto sono pochi saggi, li leggo velocemente e in 448 me la cavo, e mi sono, tra virgolette, con affetto, fregato da solo, perché ho preso chiaramente in mano tutti i volumi della rivista dal primo all'ultimo, li ho schedati, ho raccolto i titoli degli autori e più o meno ora, articolo più, articolo meno, sono venuti fuori circa 80 contributi, che sono tantissimi se pensiamo all'argomento, al teatro, per una rivista di varie umanità. Quindi per me è nato un problema difficile, come riuscire a contenere, a selezionare, a trovare il taglio e l'ipotesi culturale significativa per accorpare un numero significativo di articoli. È stata una scelta dolorosissima, perché ho dovuto eliminare, tagliare autori straordinari con uomini di teatro e personaggi dai classici, da Euripide a Seneca, a Shakespeare, a Pirandello, a Svevo e compagnia varia, che purtroppo Heiner Miller, anche per dire, non sono riusciti a trovare posto. Quindi ho scelto il criterio, un criterio doppio. Criterio di qualità letteraria, qualità contenutistica dell'intervento, e poi il criterio della testimonianza storica, come si è già detto più di una volta. e ho scoperto, e ridico quanto già un po' detto, che il teatro è vero, il teatro soprattutto dalla fondazione del teatro stabile ad oggi è sempre stato, lo è ancora penso adesso, un punto di riferimento molto importante per la vita culturale della comunità italiana. Poi questa vita culturale importante si è estesa anche all'altra comunità ed è diventata, credo oggi, una testimonianza di vita culturale che riguarda tutto il territorio, la sua immagine, la sua identità anche etnica o interetnica in una proiezione esterna. E quindi, data questa importanza, ho visto che, come dire, c'era una dialettica tra l'istituzione teatrale più importante, il Teatro Stabile di Bolzano, che nasceva qualche anno prima della fondazione della rivista, nel 1950, e la rivista stessa. Ed è molto importante che uomini di teatro, i fondatori di questo teatro, di cui adesso darò brevemente qualche notizia, hanno avvertito l'importanza del cristallo stesso, consegnando al cristallo dei loro scritti. Questo è molto importante, vuol dire che l'uomo di teatro dal 50 ad oggi, qui dico Fantasio Picco, Scaparro, Fersen, poi vedremo anche con Bernardi, hanno identificato nel cristallo un contenitore di cultura teatrale molto importante, da un lato. Dall'altro lato ho cercato anche di trovare una chiave di lettura per far vedere come persone esterne, come critici teatrali, come studiosi, da un lato guardassero il teatro che si produce qui a Bolzano, e dall'altro lato anche nello spirito fedele a questa rivista si occupassero tanto di momenti di storia dello spettacolo passato quanto di autori, di tematiche, di problematiche legate al teatro di respiro o italiano o internazionale. Volendo, questi saggi che io ho accorpato che riguardano il teatro rifanno un po' la storia del teatro dei 50 anni, degli ultimi 50 anni, che sono i 50 anni di vita del cristallo. Ho scelto come testo base, come input, questo bellissimo documento scritto da Fantasio Piccoli, che è il fondatore del Teatro Stabile di Bolzano, 1950, è rimasto fino al 1966, in cui lui in tre puntate, qui c'è pubblicata la prima, però leggetevi anche le altre due perché sono deliziosissime, lui racconta con un linguaggio molto semplice, molto comunicativo, come se quasi scrivesse ad un amico, racconta la vita di questi attori a Bolzano negli anni 50, le difficoltà in una situazione di deserto culturale assoluto, in una città che non aveva edificio teatrale, che sapete, recitavo un po' qui, stavo cercando il Cinema Corso ma non c'è neanche più quello, no? Esatto, recitava a Città, recitava in altri posti. E quindi è un documento storico importante questo, perché ci fa tornare indietro. Poi a seguire, proprio in ordine cronologico, c'è un contributo molto, molto importante di un giornalista prestigioso che tutti ricordiamo, Agostini, Pietro Agostini, che ricorda con una delicatezza e con una cura veramente quasi pittorica questo Amleto curato da Scaparro, che allora fece scalpore perché intanto lanciò un attore poi diventato famosissimo, Pino Mikol, che allora aveva 20 anni e che contro le convenzioni sceniche dell'epoca recitò l'Amleto, soprattutto il monologo, essere o non essere, seduto sul palco con le gambe a penzoloni, in jeans e maglietta e non con i costumi tradizionali dell'epoca, creando scalpore, creando grande meraviglia. E anche l'interpellanza in Senato addirittura? No, l'interpellanza allora, in Senato è stata con il Fausti Piccoli. Con il Fausti. L'interpellanza in Senato è stata con il Fausti Piccoli, che lì è stato D'Amico che l'ha sgambettato alla grande, quello è vero. Quello è stato il Fausti Piccoli. E qui siamo un decennio dopo, siamo tra il 69 e il 75 con Scaparro. E poi ho scelto, per continuare questa cronologia, un altro contributo importante di Alessandro Fersen, che anche lui è stato regista, direttore dello Stabile, 1975-1980, sono gli estratti di un intervento che lui fece ad un convegno sulla storia del teatro a Prato in quegli anni, ed è un testo molto importante perché, primo perché fa una panoramica sulla situazione del teatro di ricerca, lui faceva teatro di ricerca, faceva teatro di prosa tradizionale, era molto ispirato a teorie di Peter Brock, e quindi aveva questa visione un po' da sciamano del teatro, dove antropologia e cultura etnica dovevano dialogare e combinarsi con il corpo dell'attore. Lui lo faceva questi spettacoli un po' strani, un po' di ricerca. Infatti a Bolzano è andato bene, non bene, perché in effetti era un impatto, no? Una comunicazione teatrale molto forte, molto d'avanguardia, che forse per il Teatro Stabile era una cosa un po' forzata. Magari qualcuno si ricorderà anche il spettacolo di Fersen, io ancora non c'ero, cioè c'ero ma ero, giusto per ricordare, facendo bilancio della nostra vita, ero ancora un po' piccolino. Ecco, poi arriviamo ad uno scritto molto importante del quale si è anche parlato sui giornali, sui quotidiani locali, per il contributo lasciato all'ultimo numero, se non ricordo male, della rivista da Marco Bernardi, l'attuale direttore regista dello Stabile, in cui lui più che così fare un bilancio del passato, ha fatto una pensata, una proiezione molto, molto importante, sulla quale penso che un po' tutti gli operatori culturali o gli operatori di teatro debbano riflettere. Sommariamente Bernardi sviluppa tre tematiche per il futuro del Teatro Stabile, e lui sostiene che ci sia bisogno di una grande riforma. Questo teatro, secondo lui, deve diventare un organismo regionale, non più cittadino. Grazie a questa riforma, secondo lui, veramente, si andrebbe meglio a pianificare l'attività artistica di tutte le compagnie, e poi anche risolverebbe in parte un po' i problemi finanziari che la crisi di questi mesi, di questi anni, stanno portando alla luce. Altri due aspetti di questo saggio di Bernardi sono molto importanti, secondo me, perché lui insiste sull'importanza della formazione del pubblico soprattutto giovane, no? Riuscire a creare attraverso conti sulla storia del teatro con gli attori o altre formule importanti, una cultura di sensibilizzazione, di formazione rivolta soprattutto ai giovani, perché anche loro vanno educati, i teatri rischiano di svuotarsi. Ecco, diciamo, questi sono i saggi legati alla storia del teatro Stabile, che secondo me andava proprio vista in questa prospettiva. A completare questa importanza che la cultura teatrale ha in questa rivista, ci sono altri saggi, uno per esempio bello di Umberto Gandini, che si intitola Evviva il Verdi. Il Verdi era il nome del vecchio teatro di Bolzano bombardato nel 1943, che da quel bombardamento al 9 del 1999, all'inaugurazione del Teatro Comunale di Piazza Verdi, sapete tutti, è nato una specie di tormentone sul facciamo o non facciamo teatro, e lui in questo scritto, che più o meno cade a metà degli anni 80, quando questo dibattito era a Bolzano fortissimo, era un dibattito politico, culturale, anche molto giusto, molto acceso, molto vivace, lui scrive questo articolo in cui prende chiaramente posizione a favore, ma oltre a questo fa una piccola mappatura di questi spazi teatrali della città in cui questi disgraziati attori erano costretti a spostarsi improvvisando palcoscenici, platee e strutture teatrali del tutto effimere e disperate. Il terz'ultimo contributo è quello di una persona molto cara, molto legata al Cristallo, che tanti conoscono anche come critico teatrale studioso, Eugen Galasso, persona importante che non vive più qui, vive a Firenze, però tutti ce lo ricordiamo. E mi è piaciuto questo che lui ha scritto su questo grande personaggio, Antonin Artaud, personaggio di inizio Novecento, un grande riformatore, rivoluzionario del teatro, che lui studia con la passione per la disciplina che probabilmente Galasso ha più a cuore, no? La psicanalisi. Lui fa questo studio molto particolare, molto dettagliato, penso ancora abbastanza attuale come ipotesi e come risultati finali, sul rapporto tra la psicanalisi e il teatro della crudeltà di Artaud. Mi sembrava anche importante segnalare questo saggio, sto finendo, di un altro storico della musica di Bolzano, Giuliano Tonini, che in questo saggio molto delicato e significativo ricostruisce l'attività musicale a Bolzano, salottiera, nei salotti borghesi del Settecento. Ahimè, chiudo autosegnalandomi, ma non dico niente chiaramente per, come dire, pudore, timidezza allo specchio di me stesso. Anch'io sono presente con un saggio dedicato a Kreutzer, Franz Kreutzer, questo straordinario drammaturgo del Novecento bavarese. Chiudo solamente dicendo una cosa, ma non è una veggenza, non è una combinazione, forse una combinazione alla Lucrezia, una cosa molecolare, che mentre io scrivevo questo saggio, all'insaputa, vi assicuro all'insaputa, il Teatro Stabile stava realizzando uno spettacolo del quale io mi stavo occupando in questo saggio. Ho finito, io voglio solo concludere ringraziando, se mi permettete, chi per prima mi ha ospitato in questa rivista, Giuseppe Negri, signora, mi ringrazio tanto Giuseppe Negri, Claudio Nolet, perché ha pazientato e con il quale stiamo lavorando, Giorgio, con il quale abbiamo creato questo volume, e voi per aver sopportato le mie e le nostre chiacchiere. Grazie. Adesso spetta a me supplire rapidamente, perché abbiamo fatto abbastanza discorsi, l'intervento che avrebbe dovuto fare De Marchi. De Marchi ha curato la sezione letteraria. Devo dire questo, questa rivista nasce con una grande vocazione letteraria. No? Il professor Negri era soprattutto un letterato. Però devo dire che in quegli anni in cui questa rivista è stata concepita e si è sviluppata, alla letteratura si attribuiva un ruolo e un'importanza che a noi possono sembrare addirittura straordinari, che non si ripetono ai giorni nostri. In fondo la letteratura doveva fornire qualche cosa che ci facesse capire noi stessi e la realtà che ci circondava, e doveva anche in un certo qual modo chiarirci negli aspetti sociali e politici. Evidentemente le cose sono andate molto diversamente poi nella storia della cultura. La letteratura è sempre importante, ma non le viene attribuita essenzialmente questa funzione. La saggistica specialistica è sempre più dominante, come è giusto del resto. Ora, la rivista che cosa ha seguito della letteratura? Ma dico che ha seguito argomenti dominanti e importanti. Si ricorda naturalmente Benedetto Croce, con un intervento molto importante di Giovanni Spadolini, e forse questo fa far sembrare che questa rivista fosse crociana, ma non è così. Ci sono altri interessi, e mi piacerebbe ricordare sia Sandro Guarneri, sia Silvano De Marchi stesso, che non pubblicano qui le loro poesie, ma loro considerazioni di natura saggistica che mi sembrano abbastanza importanti. Forse è da ricordare anche la collaborazione di uno studioso germanico, cioè di Rüdiger Horst, della studiosa di letteratura tedesca di Verona Teparelli, no? Cioè noi abbiamo cercato di aprirci alle letterature, no? Anche della Mitteleuropa, alla letteratura tedesca. Molto importante è il contributo dato da Bruno Maier, no? Bruno Maier, che sento un po' mio compatriota, è vero? Ha dedicato dei saggi molto interessanti alla letteratura giuliana e triestina. In fondo, che cosa si potrà dire di questa rivista per questo aspetto? Ma che c'è stato un atteggiamento equilibrato di grande attenzione alle espressioni letterarie del nostro paese. Vuol dire che nella nostra provincia c'era molta attenzione. Le recensioni che vengono pubblicate anche, qui si fa una scelta di recensioni, proprio per far vedere l'attenzione dell'intellettuale italiano della provincia di Bolzano per la letteratura, per gli studi, per i saggi, eccetera. E quindi ci sono delle recensioni molto importanti. Io ne cito una per dimostrare quale atteggiamento aveva la rivista. Il professor Lazzarini recensì il libro di Steinhaus, è vero, su Israele. Fu un libro che poi ebbe molta importanza, fu citatissimo, viene citato ancora adesso, e la rivista puntualmente recensì questo libro, e qui la recensione viene riportata, vero? Poi dopo, adesso passando rapidissimamente ad altri argomenti, come per esempio l'arte, bisogna tenere presente che qui sono pubblicati due saggi, sì, che ho scelto io, ma perché veramente mi hanno quasi commosso, cioè di Siena, no? Siena parla di Falier in una maniera veramente significativa, e anche di Plattner. Caso vuole che lui insista sulla figura della madre di Plattner, e io a casa mia ho, per puro caso, la litografia con il ritratto appunto della madre di Plattner seduta, no, in una poltroncina, insomma, no? Ecco, e lui prende lo spunto da questa immagine straordinaria, e lui sviluppa questo articolo, e mi ha proprio commosso. Ma Siena ha avuto il merito, come tutti sappiamo, di aver avuto una grande sensibilità anche per l'arte locale. Noi lo apprezziamo naturalmente per le aperture che ha fatto verso qualcosa d'altro, no? Di aver fatto per esempio qui venire, mi ricordo, io ero assessore alla cultura e con lui abbiamo organizzato una mostra ideata da Sabarsky, dal grande Sabarsky, che avrebbe lanciato poi, no, tutto l'interesse per autori che ancora adesso vanno per la maggiore e che naturalmente sul mercato sono a livelli altissimi, no? Ma insomma, questo, ecco, volevo citare anche questa attenzione per l'arte, e devo dire che forse questa rivista può servire anche da cronaca proprio d'arte e anche delle esperienze musicali in parte, per i contributi per esempio di Tonini. Certamente la rivista, eppure Giuseppe Negri era un attento musicista, ero suona il violino, e lui però per discrezione non ha voluto pesare troppo sull'aspetto musicale della sui contenuti musicali della rivista. Però io vorrei dire, così prima di chiudere, che il gruppo linguistico italiano, almeno fino agli anni 80, con il conservatorio, ha dato un notevole contributo alla cultura di tutta la provincia. E era un conservatorio in gran parte di lingua italiana, no? Quindi adesso le cose stanno cambiando rapidamente, il conservatorio sta diventando una realtà conforme alla composizione anche etnica della nostra provincia, però in quegli anni, per forza maggiore, è vero, gli italiani avevano un grande peso e hanno dato un notevole contributo. Io spero che da questi interventi, il mio è stato qui adesso troppo riduttivo, ma non volevo stancare l'uditorio, io spero che questo volume susciti un certo interesse, e soprattutto, vi devo confessare, ho la speranza che resti per i posteri una specie di mattoncino no, utile per ricostruire le vicende che stiamo vivendo e che io ho vissuto da troppo tempo. Ecco, io ringrazio tutti per l'intervento e se qualcuno vuole intervenire naturalmente sarà ben gradito e si cercherà di dare la risposta giusta. Bene, vi ringrazio e spero di avere un'altra occasione per presentare qualcosa di interessante del Centro di Cultura dell'Alto Adige. Allora, signore, partiamo il prossimo anno con queste due cose.